Radio Virus presenta Rosa di Sera, da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. La Punta Rossa era una nave, di Marina Valcarenghi. C'era una volta, più di 100 anni fa, un dolce paese in riva al mare, dove regnava un principe sciocco che aveva la mania di dire sempre «orco qui, orco là». Un giorno i suoi trombettieri percorsero il paese in lungo e in largo per annunciare un grande ballo al quale tutti i sudditi erano invitati e durante il quale il principe avrebbe scelto la sua sposa. Tutte le ragazze a questa notizia si agitarono molto e le madri delle ragazze ancora di più, perché a quei tempi un principe, anche sciocco, era pur sempre un principe, con un grande castello, cavalli da corsa e servitori, e diventare principessa voleva dire, fra l'altro, bere in bicchieri d'oro e dormire in lenzuola di seta. E a quei tempi e in quel paese queste erano cose molto importanti. Così, invece di fare il bagno nel mare trasparente, invece di giocare con la sabbia e prendere il sole, le ragazze passarono giorni e giorni in mezzo a broccati, pizzi, nastri, fiori finti e collane per prepararsi al ballo e fare colpo sul principe. In quel paese di cui nessuno ricorda più il nome, viveva anche una ragazzina, Graziella, figlia di un falegname e di una sarta. Aveva tanti ricci rossi, sempre scompigliati, le lentiggini e 2 grandi occhi verdi. Passava il suo tempo ad aiutare la mamma a cucire e il papà a intagliare il legno, ma appena era libera correva al mare col suo cane, che si chiamava Tristano. Graziella aveva una grande passione: navigare. Giordano, un vecchio pescatore che viveva vicino a lei, aveva scatenato la sua fantasia raccontandole i viaggi che aveva fatto in gioventù. Così Graziella sapeva di paesi in cui la gente non vive riunita in famiglie, ma in tribù, in cui il latte non viene dalle mucche, ma dal cocco, e il cocco cresce sugli alberi. Sapeva di paesi dove sono gli uomini e non le donne a pitturarsi la faccia, e di regioni dove le renne tirano le carrozze degli uomini e di altre dove gli uomini tirano le carrozze di altri uomini. Sapeva queste cose e altre ancora, e ogni giorno le cresceva dentro la voglia di vederle coi suoi occhi. La notizia del ballo del principe sciocco arrivò anche in casa di Graziella. «Ti farò un vestito stupendo, a costo di spendere tutti i miei risparmi», disse la mamma. «Magari il principe si innamorasse proprio di te», sospirò il papà. «Così avresti una vita facile e felice». «Felice!» strillò Graziella. «Felice con quello sciocco orco qui e orco là?» «Comunque state tranquilli, io al principe non piacerò di sicuro». Sei sempre il solito maschiaccio, sospirò la mamma. Ma quando ti deciderai a diventare una vera donnina? Sempre spettinata, appena esci di casa vai a giocare coi ragazzi più scalmanati, parli solo di navigare. Quando i suoi genitori le parlavano così, Graziella diventava triste e pensierosa. Perché era strana e sbagliata la sua voglia di girare per il mondo? E perché avrebbe dovuto essere contenta di sposare un principe sciocco senza nemmeno esserne innamorata? E cosa voleva dire diventare una vera donnina? Si sentiva sola in questi pensieri. Sapeva che era inutile parlarne col papà e anche con la mamma. Loro tanto rispondevano sempre la stessa cosa, e cioè che da sempre, che da che mondo è mondo, le donne si occupano della casa e dei figli e gli uomini di tutto il resto. Da che mondo è mondo? Sospirava Graziella. Ma che brutto mondo! Solo Giordano, il suo amico pescatore, sembrava capirla. Giordano viveva in una casetta in riva al mare che aveva costruito con le sue mani e dove arrivava la voce delle onde. Dentro era piena di tesori, tessuti indiani, statuette cinesi, una scimitarra malese, una bambolina napoletana e poi libri di navigazione, strane scatolette, conchiglie, tutto alla rinfusa, accatastato, come ci si immagina che sia la bottega di un mago. Quel giorno Giordano stava riparando le sue reti davanti a casa quando si vide venire incontro Graziella che strillava la grande novità. «Vado al ballo! Fra pochi giorni vado al ballo del principe sciocco!» rispose Giordano. «Ho in mente uno scherzo per il principe che se mi riesce ci sarà da morir da ridere!» rispose Giordano. «Senza contare che mangerò babà con la crema di lamponi!» rispose ancora Giordano. «Beh, non riesci a dirmi altro che oggi? E se il principe ti vuole sposare?» «Ma dai, Giordano, cosa ti viene in mente? Non sono il tipo che fa innamorare un principe.» Allora il vecchio pescatore mormorò fra sé e sé: «I principi, gli sciocchi, e soprattutto i principi sciocchi, si annoiano molto. E quando ci si annoia molto, si cercano persone diverse e divertenti, e tu sei una ragazza diversa e divertente.» Graziella alzò le spalle e disse: «Dai, non pensiamo a queste stupidaggini. Giochiamo a far saltare i sassolini piatti nell'acqua. Oppure andiamo in cerca di granchi, che questa è la loro ora. Oppure no, raccontami della Malesia, di quel paese in cui gli uomini e le donne vivono nello stesso modo.» E anche quella volta, come ogni volta, Giordano, sorridendo, si mise a raccontare. E mentre lui riviveva la sua vita, Graziella, con la faccia fra le mani e lo sguardo perduto, sognava la sua. Finalmente arrivò la sera del ballo e mentre in mare si accendevano le prime lampare, in tutte le case fervevano i preparativi. Graziella indossò un bustino di stecche di balena che le faceva una vita di vespa, come si diceva allora. Sopra, la mamma le infilò la crinolina, una sottogonna coi cerchi di ferro che è come una gabbia per tenere larga la gonna, e sopra ancora 7 sottogonne, una più vaporosa dell'altra. Poi finalmente, dopo aver infilato delle sottili scarpine di raso, Graziella indossò il suo abito, una nuvola di mussola bianca con 5 balze di pizzo e nastri, una scollatura ovale con un mazzolino di rose e mughette all'attaccatura delle spalle. Altre roselline e mughetti furono sistemati tra i riccioli rossi raccolti a chignon. Allora Graziella si guardò allo specchio e vide una bellissima bambola. «Ma sono io», pensò. «A me non sembra di essere io». «Come sei bella!» disse la mamma estasiata. «Così sì che sembri una vera donnina! Guarda come stai bene con la crinolina! Pensa, se diventerai principessa, potrai vestirti sempre così!» «Sì, sempre mal di piedi, sempre lo stomaco strizzato, sempre inciampare. È proprio una bella prospettiva diventare principessa», pensò Graziella, ma si guardò bene dal dire niente. Abbracciò i genitori, prese un lume a petrolio per farsi luce nella strada e si avviò al ballo. Graziella fu incantata dalla festa. Gelati di rosa, vasetti di cioccolata con fiori di marzapane, bicchieri profumati di gelsomino e una musica deliziosa. Si era completamente dimenticata del principe sciocco, quando ecco che, sul più bello, lui si avvicinò e «Orco qui, orco là! Vuoi ballare?» le disse. Graziella accettò col più luminoso dei suoi sorrisi. Poi, mentre volteggiavano insieme nel mezzo del salone e proprio nel mezzo di una giravolta, Graziella sporse un piede e zac! Fece uno sgambetto al principe che finì seduto sul pavimento, mentre la fanciulla gli saltava intorno cantarellando «Orco qui, orco là, ecco il principe in terra va!» Tutti si zittirono di colpo. Gli invitati, i servitori e persino i merli indiani che sanno parlare, perché quando il principe andava su tutte le furie succedevano delle cose terribili. Prendeva a sassi lampadari, faceva uccidere i merli, morsicava i servitori e faceva pagare ancora più tasse alla gente. Ma, tra la sorpresa generale, il principe si mise a ridere insieme a Graziella e allora tutti, con un sospiro di sollievo, risero con lui. Da quel momento e fino alla fine della festa, il principe volle ballare solo con Graziella e ascoltò affascinato le incredibili storie che la fanciulla gli raccontava sulle sirene che stregano i naviganti col loro canto, sugli eschimesi che vivono in case di ghiaccio e sui paesi in cui non sono gli uomini a mangiare le piante, ma le piante a mangiare gli uomini. L'indomani, appena spuntò il sole, il principe sciocco riunì i suoi ministri nella sala delle grandi decisioni personali e comunicò la sua intenzione di sposare Graziella. «È l'unica persona che mi abbia fatto divertire e la voglio quindi sposare. Punto e basta, orco qui, orco là!» Detto fatto, salì sul suo cavallo bianco e galoppò verso la casa di Graziella. Quando il principe sciocco, tutto vestito di seta celeste, con la spada e il cappello piumato in mano, entrò nella casa, i genitori di Graziella rimasero lì impalati dall'emozione e dalla gioia. «Ho il piacere, orco qui, orco là, di chiedere in sposa vostra figlia Graziella». «Quale immenso onore!» balbettò il papà. «Siamo tanto felici!» mormorò la mamma. Graziella invece era diventata tutta rossa dalla rabbia. «Felici un corno, onore un corno, io non voglio sposare nessuno, meno che mai un principe sciocco per finire in quel ridicolo palazzo vestita come un pappagallo». E prima che i tre potessero riaversi dalla sorpresa, infilò la porta di casa e scappò a gambe levate, seguita da Tristano, lasciando i poveri genitori nella più cupa costernazione e il principe in preda a una furia selvaggia. Tornato in un baleno alla reggia, diede ordine immediato di cercare Graziella dappertutto, anche dentro le botti del vino. La voglio anche a costo di chiuderla in gabbia insieme ai merli, orco qui orco là. Graziella e Tristano si rifugiarono dal loro amico pescatore. «Aiutami, Giordano!» chiese la fanciulla. «Fammi scappare, perché io non voglio sposare quel principe. Tu lo sai quello che voglio fare nella mia vita. Tu mi puoi capire e mi puoi aiutare.» Giordano fumava la pipa in silenzio. «Aiutami a travestirmi da ragazzo!» insistette Graziella. «E portami nell'isola della Punta Rossa. Là mi arrangerò per un po' di tempo. Ti prego!» Giordano restò ancora un attimo in silenzio, poi si alzò e tirò fuori da una cassa panca una camicia a righine, un paio di pantaloni di fustagno verde, lunghe calze nere, sandali e un turbante arabo. «Tò, infilati queste cose», borbottò. Poi, vedendo l'espressione felice di Graziella, continuò. «Ricordati però che l'isola è deserta e che la solitudine è faticosa.» Graziella non lo ascoltò neanche e in un batter d'occhio fu vestita e chiese: «Dimmi di chi erano questi vestiti che mi vanno così bene?» «Di un ragazzo arabo che me li aveva venduti in cambio di un cappello da cowboy.» «Forza adesso, imbarchiamoci, è buio e nessuno ci vedrà, alzeremo le vele solo quando saremo al largo. Vieni, Tristano!» L'isola era piccola e molto rocciosa, ma a Graziella sembrò un paradiso. Giordano le aveva lasciato lenza e ami per pescare, un po' di provviste, fiammiferi, coperte, qualche asciugamano, una botte d'acqua, un coltello, corde, un lume a petrolio e due tele di sacco. «Torno fra una settimana», le aveva detto prima di lasciarla. «Abbi cura di te.» Ormai era l'alba e Graziella si mise al lavoro. Prese dei pali e delle assi e coi teli di sacco costruì una tenda sotto la quale sistemò le provviste. Poi, quando il sole fu alto e faceva un bel caldo, si sdraiò a prendere il sole, fece i tuffi e le gare di nuoto con Tristano. Dopo il tramonto si mise a pescare e dopo un po' tirò su un bel cefalo. Tristano abbaiò di gioia. Poi accese un bel fuoco davanti alla tenda per arrostire il pesce, che si divisero da buoni amici. All'imbrunire il sonno li avvolse stremati e felici sotto la tenda. Passarono così alcuni giorni, bellissimi nell'isoletta ma terribili nel regno del principe sciocco, che fece cercare Graziella nei solai e nelle cantine di tutte le case, dentro ai camini, nei boschi e nelle strade, in mezzo ai campi e nell'acqua dei fiumi. Ma nessuno pensò a cercarla nell'isoletta, perché nessuno credeva che una ragazza potesse cavarsela da sola in un'isola deserta. Andarono a cercarla anche dal suo amico Giordano, ma naturalmente lui disse che non l'aveva vista, che non sapeva niente e che se anche lo avesse saputo non l'avrebbe detto mai al principe sciocco e ai suoi servitori. «Perché», affermò sorridendo, «ognuno deve essere libero di andare dove gli pare e di vivere come meglio crede.» Una mattina sull'isola sbarcò un giovane marinaio. Il suo arrivo prese alla sprovvista Graziella, che dormiva come un ghiro, ma non Tristano, che abbaiava da mezz'ora, vedendo una barca avvicinarsi. Dal canto suo il giovane marinaio pensava: «Che strano, che ci farà mai un cane su quest'isola che è sempre stata deserta? Che sia capitato un naufragio? Forse qualcuno ha bisogno di soccorsi.» Una volta sbarcato, Tristano lo guidò alla tenda di Graziella. «E tu chi sei?» gli chiese Graziella stropicciandosi gli occhi e ancora mezzo addormentata. «Mi chiamo Nicola e giro le coste con la mia barca trasportando carichi.» «E io mi chiamo Lorenzo», disse Graziella, che era sempre travestita da ragazzo, e sono qui perché ho dovuto scappare di casa. Siediti e se vuoi ci prepariamo il tè. I due ragazzi si misero a chiacchierare e si accorsero di avere tante cose in comune: l'amore per il mare, il gusto dell'avventura, la curiosità per i paesi lontani, la voglia di sentirsi liberi. Ma tu hai viaggiato anche molto lontano? Gli chiese Graziella. Una volta, ma non con la mia barca. Sono stato in un paese molto bello e strano, dove molta gente vive su palafitte, che sono delle case sui trampoli, di legno e di paglia. Come si chiama? Si chiama Kudat e si trova su un'isola che si chiama Borneo. È bellissimo anche se fa un caldo tremendo. Di fronte al villaggio ci sono tanti isolotti che hanno dei nomi buffi per noi, come Balabac, Bangui, Cagayan. Al mio paese dicevano di stare attento perché quelli che vivono là sono i tagliatori di teste. Invece si chiamano Dayaki e sono dolcissimi. Tirano fuori la gomma dagli alberi, coltivano il riso tutti insieme e sai che i tetti delle loro case hanno la forma curva delle tende. E poi loro non hanno tante piccole casette, ma il villaggio di solito è fatto di una casa sola, lunga, lunga, dove vivono tutti insieme. E anche il pesce che pescano è tanto ed è di tutti, non di chi lo ha pescato. Ah, e come si vestono i Dayaki? Ma poco si vestono, perché fa molto caldo, solo tunica e pantaloni bianchi e quasi sempre a piedi nudi. No, perché non mi prendi come aiutante? Disse all'improvviso Graziella. E non andiamo insieme a fare il tuo lavoro? Quei viaggi lì non si fanno con una barchetta come la mia, rise Nicola. Ci vuole un bastimento e il tempo per costruirlo, e poi non bastano certo due marinai. E allora perché, tu che giri fra le isole e sulle coste qui intorno, non chiami un po' di altri ragazzi su quest'isola e non costruiamo un bastimento per partire dopo tutti insieme? Questa sì che è un'idea, esclamò Nicola. Nicola l'indomani partì per un giro di ricognizione. In ogni paese della costa in cui arrivava, parlava con i giovani e raccontava che nell'isola della Punta Rossa c'era un ragazzo che viveva solo e aspettava compagni di viaggio per costruire una nave e quindi partire per lunghi giri. In diversi accettarono questa idea e ognuno cercò di procurarsi le cose necessarie. All'isola della Punta Rossa arrivarono così alla spicciolata tante barchette e ogni barchetta veniva disfatta per costruire il nuovo grande bastimento. Chi portò telai per le vele, chi chiodi e martelli, chi legni, vernici, tubi di ferro e lastre di vetro. Graziella si accorse con grande gioia che arrivavano anche diverse ragazze. Così, soprattutto verso le sue nuove compagne, le sembrava ingiusto nascondere che anche lei era una donna. Allora un giorno, mentre stavano lavorando, trovò il coraggio di dire la verità. Levò il turbante arabo e scesero giù i riccioli rossi. I suoi amici restarono a bocca spalancata. Come vedete, Lorenzo non esiste, perché io sono Graziella. Mi ero dovuta travestire per riuscire a scappare dal mio paese. Quando finì di raccontare la sua storia del principe sciocco, tutti diventarono ancora più gentili con Graziella, perché doveva essere stato triste scappare dalla propria casa e dal proprio paese per poter vivere in libertà. Finalmente la nave fu pronta per il varo. C'era tutto, due grandi vele e il fiocco, due alberi, tante cuccette, l'ancora, la stiva e persino un vecchio cannocchiale mezzo arrugginito. C'erano anche le carte nautiche, una cucina a legna, piatti, bicchieri e tutto il necessario per vivere, in molti e per molti giorni. La nave si chiamò Punta Rossa in onore dell'isola e il nome fu dipinto bello chiaro sulla fiancata. Non restava che partire. La nave si staccò di terra, levò l'ancora, la Punta Rossa era in navigazione. Da allora sono passati più di 100 anni. Quei ragazzi vissero una vita bella e interessante e ancora oggi tutti ricordano il nome della loro isola.